acciaio. Metto quelle lì, tipo quelle che allenami, tipo quelle così. Almeno sei più tranquillo. Che magari invece di fare il buco e l'incenamento metto il tassello. Adesso vediamo, forse mi conviene fare più il buco a me. Cemento rapido, asciutami subito, là. Ma così più tranquillo e tutto. Perché quelle che ci sono sopra adesso non le vedo messe bene. Anche se ci sono tanti anni, quella me l'aveva costruita Adriano, ti ricordi? Sì, già mi ricordo. Perché tu non hai blocchetti, se no io da qui già l'ho preso, che sono 22 euro, due tappe a piastra. Mi ha messo i tasselli, quelli da 14, ma ti dico che una canna un'acca, però io ho blocchetti, ho fatto il foro giusto, i tasselli entrati addirittura. Anche a forza, ho dovuto stringere a chiave, non chiave 17, ma una canonata, però due furie, non un foro solo, a piastra. Ci devo frigiare, costano 22 euro la coppia, ci ho preso quelle. E poi ho quelle che avevo carbonate, però sono troppo pesanti, quelle lì, ma sono conservate, capite? Faccio vediamo, se l'estate decido, faccio un altro lavoro. Se poi l'aria è d'accordo, la metto sopra in alto, sul tetto. Però ci vuole la scala aerea. Ma non ha grana di bucaffa, batte in un giardino l'antenna. Questo è un'antenna eccezionale, lavora molto bene anche la terra, e non crea problemi, non ha rotture di palle, capito? Ma di il calma, fenomeno del vento, un vento, guarda, già lui ha fatto quella raffica di vento, tipo tromba d'aria, eccetera, era già montata l'antenna. Dove è adesso? Ho visto che manco si è mossa, sia quella che la manta, rifletteva solo gli ultimi due elementi di sopra, però ha tenuto molto bene, quindi non ha più problemi. Vabbè, se quella la metti sul tetto, guai, già arrivi bene così, questa se la metti sul tetto. Vabbè, la differenza molta, da dove è adesso al tetto, c'è molta differenza. 10 metri. Cazzo, un verso, vabbè, scala, perché non si può salire sul tetto, qua? No, non c'è accesso, ci vuole la scala aerea, puoi fare il ponteggio, stai scherzando. Poi, a tegole, cazzo, costano una barca sole, quelle tegole. Non c'ho agganci, non c'ho niente, devo tassellare nella canna fumaria, no, non ne voglio casini, va bene così, ma anche dov'è adesso, se io adesso c'ho, hai visto quel tubo che aveva carbonato, quello era 60, lì ho messo 60, il 55 e boom. Ci sono ancora altre 4 misure, perché fai 60, 55, ok? Poi fai un 50 interno, un 45 e un 40. Non sai quanto è l'attacco di quell'antenna? Ah? Da 3 pollici, cos'è lo devo dire? Da 70, quindi posso mettere qualsiasi tipo di tubo, non è come la manta, ma ti è obbligato di metterlo per forza da 30, 32, quanto è 36, 35, non so. Questo non ha problemi, perché c'è i cavallotti con la piastra in acciaio inossidabile, quindi posso mettere qualsiasi tipo di tubo, posso arrivare anche col 60 lì. Quindi se io metto 60 come piantone a terra e innesto il 55 o il 50 di tubo d'almine da 6 metri, allora già che si antenna in difficile. Ui. Ma aspetta, c'è l'attacco come la ghimasse, l'attacco laterale. Allora la ghimasse è cingomma rispetto a quello. Quello c'ha due cavallotti da 60, larghi, in acciaio inossidabile, chiave da 17, ma chiave da 13, no? Sì, vabbè, non intendevo quello, ma dico, c'ha sempre laterale come la ghimasse. C'ha la piastra e due cavallotti, quindi metti il tubo dentro, poi stringi i cavallotti che vanno a staccare la piastra, ma è molto robusta sia la piastra che i cavallotti, puoi mettere un bel tubo, capito? Sì, ho capito, cazzo è grosso quel tubo là, mamma mia. Mi ricordo quel giorno stavo giocando con le antenne e mi sono un po' cagato, non ho detto niente, ma capuccia. eravamo praticamente a 45, 47 metri dalla testa. Eh sì, dove eravamo noi, fai sì, 45 metri. Tu immaginati quel tubo lì, io l'ho usato per piantone a terra e tocca il giardino, tocca il piano del giardino, ed è a terra, attaccato al muro della recinzione della casa, capito? Di alto 1,70 m, diciamo, là, qui c'è la rete, quindi più di 2,5 m, però è attaccato lì, quel tubo. Da quel tubo lì possono partire altri 5 tubi, tutti di diversa misura, oppure metterne uno in estratto a quello, perché il termine era 50, quello era 60, lo metti dentro lì da 6 metri e tratti l'antenna, vamos alla playa, oh, goserebbe. Vabbè, quanto parola è adesso, Cla? Adesso c'ho 2 metri attaccati al muro e 2 metri che stanno lavorando. Non puoi prendere un palo più lungo, così superi, non dico la casa, ma si può fare. Certo si può fare, anche 4, ma non l'ho fatto perché la sto ancora sperimentando l'antenna, capito? L'ho messa così per vedere le differenze, per vedere, però sto usando sempre questa, perché nonostante sta lavorando a 2 metri dal suolo, a 2 metri, e la mantova è a 6,50 m, ma se la mangia nuda e cruda. Se va, vabbè, costicchia, però è un'ottima antenna, poi senza radiali, ancora meglio, i radiali sono un giramento di balle, ma sembra così, però sono un giramento di balle radiali, cara. Io, credi, me li odio, preferisco un'antenna che non abbia radiale, tipo me, la chiamata, è buona come antenna, va, già ne li va, funziona bene, ha voglia, si fa sentire dappertutto, non è, perché così se la vuoi buttare giù, la butti giù tranquillamente, invece quella la mantova o altro tipo di antenna che ha radiali, è un giramento di male, cazzo, ti viene male smontarla. Tu, questa l'ho piantata da solo, l'ho sembrata a terra, giubilato con una mano, a 2 metri di altezza, con lo sgabellino, con la scala quella al gabellino, che c'era due gradini, mi sono messo sopra, l'ho presa con una mano, l'ho infilata nel palo, è leggerissima, è leggera, però è in alluminio, è fatta diversamente, ha un guadagno superiore, una 7 ottavi, la chiamata è 5 ottavi, e costa 20 euro di differenza, cioè, capito? 20 euro di differenza, perché poi alla fine costano uguali, però come antenna è nettamente superiore, ma neanche a paragone, sia come costruzione, come regia, come tutto, non c'è differenza, ma l'ho detto io, l'ho detto il tecnico, assolutamente, perché lui prende anche le Game Master, capito? La differenza, ma lascia perdere, maestro, rispetto alla Game Master, questa è una Formula 1, sia come costruzione, come resa, come guadagno, come stabilità l'antenna, come tutto, perché la Game Master è tanto tipo dura, è un tubo di PVC, traugato da un vetro, è praticamente, traugato da un vetro, questa antenna, quanto ti può durare secondo te? Poi a me, lì e qua ci sono 3 gradi di differenza rispetto a Sassari, su Manzano è un'onda d'inverno, no, vanno, sto parlando di dicembre, gennaio, febbraio, dicevo anche meno 2 gradi, allora nel momento si secca lì l'antenna, poi una giornata di sole aumenta la temperatura e si spacca in due. Non penso che abbiamo costruito un'antenna là così, tanto per, magari anche alle temperie, cioè al freddo là, diciamo, freddo, caldo, non lo so, questo non te lo so dire, non sono esperto in materia, comunque sia, magari già ci farà un pensierino su quell'antenna che hai comprato tu. Guarda, me ne hanno già chiesta in 4, infatti ho già telefonato una perché non ne ha disponibili, adesso le ho ordinate e ne devono arrivare 60, perché in continente ce le hanno tutte comprate, tutte. In Sardegna sono l'unico, mi hanno già chiamato in 4, non so dove è partita la situazione, però una ad esempio la vuole Francesco Uranio, sicuramente quella che mi mandano adesso vediamo se si mette d'accordo con Fusaro, perché mi ha chiamato anche Fusaro, ha voluto il numero di questo venditore, se vuole farci una chiacchierata ce l'aveva la concessionaria per la Sardegna, ma non penso che la voglia, nel modo più assoluto. Quindi si sta appoggiando a me praticamente, capita, se me ne manda una e la tengo io di scorta. A chi serve io gli do lo stesso prezzo che praticamente lui la prende a me, capito? Al primo, poi il secondo la paga a prezzo pieno. Ah, beh, certo. E alla fine, allora io l'ho vista a 170, 190 euro costa, così, no? A lui. Sì, lui le sta dando 180 euro più 20 euro di trasporto, capito? Perché l'elemento centrale è lungo, quindi ti fanno pagare l'ingombro, capito? 20 euro ci vuole il trasporto, non 10. 20 euro di trasporto, quindi 200 euro, ok? Io, adesso a me quella che mi manda, me la manda praticamente a gratis, e io se è una persona che è valida gli darò lo stesso prezzo che lui mi dice di darla, altrimenti devo far pagare il trasporto. Certo. Quanto è lungo questo coso? L'elemento è 3 metri, quello che non. Il primo che tira 2,70 metri, pare sia 2,50 metri, il piantone, dove poi metti tutti gli altri tubi, capito? Comunque il piantone è già semplice. Ah, una fesseria, io me l'ho messo nel giardino, poi al periodo estate, è caldo, meglio vuoi entrare nel giardino, mi guardavo il manuale, devi seguire tutte le misure, quindi devi avere il metro in mano perché devi fare la perfezione, se no non funziona, capito? Poi c'è tutti i segni, la fascetta, c'è il segno dove devi mettere la fascetta, la misura dalla fascetta all'altro elemento, misuri quanto è? 1,70 m, 1,70 m ti segna l'altro pezzo, poi c'è S1, S2, se guardi il manuale ti scrive tutto, dove vanno stretti gli isolatori, dove va agganciato la G-Pole, tutto c'è, basta seguire le cose e farle piano, leggendo e con la testa. Comunque diciamo che è più semplice dell'amato, guarda. È una grande, è una vesseria piazzarla, non una vesseria, io ci ho messo 4 ore, ma mi ho controllato tutto, me l'ho rimisurata, capito, perché poi lo stiro, l'ultimo pezzo deve essere 8,20 metri dal punto appunto dove c'è l'isolatore, dove attacca il PL, alla punta deve essere 8,20 metri, e quella è la taratura proprio perfetta. Immagini che io l'ho messa, c'ho un piatto di ferro, no? Forse l'hai anche visto che era sui mansarda, un piatto di ferro che mi sono fatto fare da un amico fra i laggiù, proprio per terra le antenne, con un pezzo di tubo da 1 metro. L'ho innestata lì e l'ho parata a terra. Sono entrato 30, già tenevo la radio, no, l'ho controllata, 1,7, uscivo fuori e tiravo sullo stilo. 1,4, tiravo sullo stilo, sono arrivato proprio a tararla perfetta. Allora ho guardato lo tubo e capito, si tara. L'ho messa sul tubo e è rimasta perfetta, 0,8 di stazionato. È vero, ma quando è così, cioè, vabbè, dai, ci devi stare ore e ore cazzo, per tararla, mamma mia. Tocchi che sale, scende, sale, scende. Una roba già. La arrivi benissimo, ma non è che. Non è che hai perso tanto, hai perso poco, quasi niente. Ma se sento il mondo come prima, lui già non mi ha funzionato, sì, posso aver perso qualche decima di segnale, ma cosa c'entra? Ma l'importante è che mi sentano tutti, io sento tutti. Alghero mi arriva 9 come mi arrivava Carbonazzi, qualcuno mi arriva di più, qualcuno mi arriva di meno, Roberto perché eravamo vicino mi arrivava 9,50, adesso mi arriva 9,30, Antonella Lecce mi arrivava 9,50, adesso mi arriva 9,30, tu mi arrivavi da casa di tua madre, mi arrivavi 9,15, 9,20, c'è leggermente più basso, Giulio era 9,20, 9,15, io da lui ero 9,18, adesso sono 9,15, non cambia niente, capito? Però ha una ricezione fantastica, ma poi non ha QRM lui, non ha QRM nuda, quando c'è un sacco di casino, propagazione e tutto, no? Con l'amante va a cacotino comodo. mi arriva dal QRM a 7, ho avuto la GEPOL 2, 2 di QRM, 2 di QRM di propagazione. Sì, sì, è fatta bene come attende. E adesso, vabbè, adesso proprio, vabbè, questo, per quest'anno no, per il prossimo anno la butto giù. E poi volevo fare una cosa, siccome vorrei cambiare anche il palo, insomma guarda di qualche metro in più, adesso è 4 metri più o meno, anche 5 metri così dai, però volevo tirarmi il cavo da qua, portarlo su, cioè farlo arrivare fino alla finestra e poi mettere un barilotto qua e partire con un cavo più sottile, non mi fa niente. Assolutamente, basta che l'impedenza sia giusta. Il barilotto non ha nessuna perizia, sono dei connettori attacco PL fatti apposta per congiungere i cavi, non serve a niente, non cambia niente, capito? Non cambia niente, sono fatti apposta, non ne ha di perdita cosa c'ha poi. Tu immagini che prima avevo 50 metri di cavo, io meglio 15 metri, andare 15 metri di H1000, perdita zero sotto zero, capito? Entra nel, diciamo, nel marciapiede, lo chiamo così perché si può anche camminare, del cavillo mi entra nella finestra che è dalla parte opposta della casa. Ho fatto il buco sotto nella finestra, c'è nel legno, il sportellone non tocca, perché chiudo anche gli sportelloni, ho fatto il foro, entra il cavo, entrano due cavi, due a camilla, entrano in buco, prima ne entravano i giri, i cavi, a carburante, qua ne entrano due su. Ho fatto veramente un bel lavoro, io non la conoscevo, tanto me l'ha proposta lui, tanto è vero che me l'ha mandata, mi ha detto provala, piazzala, fammi un bel filmino, mi dici come va e poi se sei soddisfatto me la fai. E così è stato, il filmino che c'è su YouTube, quello gliel'ho fatto io, gliel'ho mandato, lui l'ha perfezionato e poi l'ha messo su internet, capito? Veramente soddisfatto, alla grande. Va bene Lugarie, dai, Michi, è arrivata l'aria, sta rientrando, devo scaldare la carne, devo preparare la cena, ok? Un abbraccio grande, grazie alle due chiacchiere. Se hai problemi, fammi sapere. No, di origine non avremo problemi. Ehi, va bene, saluti a tutti, buonanotte, a domani, ciao.